Da una donna e altre fontane, noi siamo le donne. Noi siamo le donne che saltano a cavallo quando il paese è assediato, quelle che portano il pane e distraggono il diavolo al crocicchio. Io mi lavo ad una fontana, l'acqua sul collo, fiere perché siamo la lancia e il nostro stesso scudo. Il padre di mia madre ha detto: avete fatto quello che gli uomini non sono riusciti a fare. Il mio cuore si è riempito di orgoglio. Appena un'inquietudine mi suggeriva un futuro di dannazione e perdermi in imprese impossibili. Siamo le donne che cavalcano senza sella. Siamo quelle che salvano i vostri paesi, quelle che domani rinchiuderete nei vostri ginecei. Siamo le donne che nessun muro può imprigionare. Gli spiriti liberi delle stagioni che verranno. Da il monte sopra il cielo, Demetra a Persefone, tua madre a sua figlia. Quando tu tornerai, figlia mia, le stagioni torneranno a scorrere con la forza della rinascita. Stordirai gli eserciti, dovranno dolersi di essere in guerra, di non saper amare. Quando tu tornerai, l'acqua tornerà a scorrere, il vento odorerà di nuovo di semi odorosi, i seni delle colline saranno gialli di fiori e le nuvole maestose nutriranno draghi. Le notti partoriranno libellule e serpenti quando tu tornerai. Io potrò riposare con entrambi gli occhi e con il cuore. Potrò riprendere a sognare, non ti peserò, ti saprò vicina. Il tempo di una manciata di chicchi. Finirà questo lungo inverno, torneranno le stagioni per fiorire, i gigli di fosso aspettano te. I narcisi si sono piegati, non sentendoti arrivare. Tutta l'umanità è stata punita con piogge ininterrotte, ma io amo la pioggia e il canto della natura che ti aspetta. O mia Persefone, 9 mesi son lunghi da passare. Vi ho partorito il lutto funesto che mi ha messo alla mercé dei cacciatori. Hanno devastato la piccola selva e la casa. Funestano la città, le iene umane. Ora tutti son pronti a celebrare il ritorno, ma io ti dico, torna segreta, che non ti sentano arrivare perché non meritano. Hanno offeso Demetra, figlia mia. Hanno distrutto ogni pace nel tempio già provato da battaglie, eppure noi. No, tu hai il segreto della rinascita. Con il tuo ritorno le loro azioni svaniranno come neve al sole. Quando Persefone tornerà, l'aria sarà satura di umori, i biondi gigli avranno il coraggio di aprire l'anima a lungo trattenuta. Su stelo forte l'aglio innalzerà il viola pianeta odoroso. Senza timore i semplici esploderanno di vita, preparando i semi per l'inverno. Quel che è stato gioco di spiriti malvagi sarà fugato da ondate di gioia. Come bacche velenose raggrinzeranno le loro parti molli. Nessun animale sarà più in pericolo, il saccheggio avrà fine. Andranno liberi gli animali, senza nessuno che li cacci o li stordisca, perché il soffio di Persefone è balsamo per l'anima del mondo. Come il seme si stacca dalla pianta, ti ho lasciata andare senza mostrare dolore, fiaccola in mano, senza volerlo accusare. Credevo giunto il momento e lo era, ma pure è inscritto, per breve che sia, il tuo ritorno. Ora che torni, l'oleandro è fiorito. L'ortensia antica si inclina al peso dei propri fiori pieni. L'erba del sottobosco si fa verde e gli aromi imbandiscono la tavola. A tutto questo gli umani, per insulsa modernità, rinunciano. Non noi, che abbiamo radici antiche, né tu, che conosci la forza della montagna. Esuli. Si viaggia leggere per i paesi del mondo, come api vanno tra i petali dei fiori cinte di polline. Tu hai ora saputo, ora sai, quali dee noi siamo. E perché? I demoni succubi sempre cercheranno di sbarrarci la strada, senza riuscirvi. Come morte rincorre la vita, che da ogni morte rinasce a nuove, stupende, gloriose stagioni. Edera haiku. È più costante l'edera del giardino o il suo silenzio? Così sotto, così sopra. La palma è il punto più alto per guardare le stelle dentro di noi. Hanno ucciso le stagioni. Andavano nudi e senza cibo, inseguiti dai propri simili. Mi feci capanna e letto d'ombra, dea, veste e scodella. Al tempo dei grandi fiumi mi aspersero per farmi fruttare, non mi negai all'annuncio, propensa a farmi latte di vita. Dicono che su di me vive una fenice, ma hanno ucciso le stagioni, tutto hanno ridotto in cenere e chiedono rinascita. Fu un errore concedere loro la vita. Me, palma, gli dèi se lo chiedono e non hanno risposta. Dedicazione per Venus Venezia, l'età di Ecate. Vedi, Ecate, come mi son ridotta? Zoppa in stampelle, con l'età ti si guasta il corpo, ma seguendoti nessun sentiero ho tralasciato, percorrendoli tutti per potervi inciampare. Vedi, Ecate, a te mi presento nella giusta età, quando ci si porta a Delfi. Ai 50 fui a Rodi e so che l'apprezzi. Sul triplice sentiero mi hai condotto affinché mi smarrissi e ti trovassi. Anche lo specchio si ruppe in tre pezzi. Tre di me vidi riflesse e tre città abitai che erano una. Tutto ciò che ho trovato diviso ho cercato di unire, farne una cosa sola, con sentimento che dall'odio trasmuta in amore. Nei territori ora la gente campa e va, senza campanili, in case dalle 100 stanze. Portaci via, Ecate Trivia, sul carro, guardando come i bimbi, gli scemi o i morti, verso l'alto, a riscoprire le stelle. Da di amore e d'odio la Madonna si guardava pensosa. La Madonna si guardava pensosa, le mani rigate dal gelo. Dall'altra parte della stanza, Gesù ammazzava il tempo schiacciando formiche. Ci serve un mito di maternità e castigo, dissero gli evangelisti, e uno di loro scrisse: Madonna adorata, bimbo divino. Allora la Madonna alzò gli occhi. Gesù guardò verso la porta. Un Dio terribile si mostrò loro. Impauriti corsero l'uno nelle braccia dell'altra e così li colse il pittore che li falsificò in un sorriso. Abbiamo interrogato gli astri. Astri assorti rispondono all'elenco di vane soddisfazioni, cercando possibilità con leggi dei padri. Li abbiamo scritti su pagine sante, dettate da coscienze maschie. Possibile anche leggere così. Astri assorti, li abbiamo scritti, rispondono all'elenco su pagine, di vane soddisfazioni sante, cercando possibilità dettate da coscienze con legge dei padri maschie. Ad mortem Dei. Ch'io sia maledetta se crederò ancora alle parole dei maestri, perché allora Dio continuerà ad esistere. Ricordi te stessa tra dea e schiava? Ricordi quando la notte seguiva il giorno e Minerva si inginocchiava a Febo? Quando Ho ha ricevuto l'ordine e Lesbia è stata raccontata e Beatrice incatenata all'altare? Era un tempo terribile e preferivi nasconderti. Che io sprofondi e resti serva per sempre se ancora una volta piegherò il capo e abbasserò lo sguardo. marionetta impagliata, se dopo l'attimo di chiarezza tornerò nel ruolo. Da Trittico per un Madonno, Madonno. Madonno, passo sotto lo vostro davanzale e il cor mi batte e agogno vedervi. Ah, vi corteggio, e ho cercato il primo bacio e scelto l'ora e il luogo dei convegni. E voi, donzelloso, ve ne state, attendendo ossequio, prova d'amore, tenerezza? Triste proposito il mio di perdermi nel coltivar di voi l'imago. Neghittoso mi ascoltate, non essendovi necessario farmi da padre. E vi pare minore, per non essere stato cacciatore, il valore di ciò che offro. Misero, il cui orgoglio soffre sentendosi preda, e con freddezza si difende quell'orgoglio che di avermi domata si farebbe vanto. Amor di femminista per gelido uomo. E infin che vuoi la vita? Di tue labbra cupide liricizzo assenza. Già ti cantai prostrata canzoni invereconde e biascicai prose sudditanti, ma tu, fero, te ne stai sicuro laddove l'artiglio non ti tocca. Stolto, che occasion si fatta, mai ad altro fu data. Mio cavaliere, intesi? Una fonte, un cavaliere, un drago, ma io son la fonte. E il cavaliere e il drago. Da Eis Aiona, amare con levità. Amare con levità, una stanca città d'acqua. Così apprendiamo del tramonto, che sempre ti ritorno accanto, come acqua sul muschio della riva. Quello che un giorno venne, con un bosco di rose, nell'acqua il suo volto, e le rose porta la corrente. Da troppa luce acceca parlano lenti. Parlano lenti quando mentono. Gravi abbassano gli occhi, così che li puoi guardare. Mancato, odio osservarli bene nel momento del mancamento. Troppo attenta a cercare il mio. Nella pausa tra paura e rapina, nel reciproco dono del corpo, il miraggio non li fa migliori. Pur se solo quello cercano, solo per quello vivono, e sei così curiosa di quel niente, e gli regali un'anima che non hanno. Da casto sposo le case del passato. Le case del passato sono gorghi in cui precipiti, piacevoli oscillazioni di un nulla conosciuto, o incubi perenni, pronti a ricominciare. Come ti risvegliassi al terzo piano della tua prima casa, con il fresco del lenzuolino a ricami rosa, tirato sul mento. Ma non è mai la prima casa. Prima ce ne fu un'altra e un'altra ancora. Era bettola, castello, castelliere, palafitta, capanna, grotta e più indietro, anfratto, albero, ramo, fessura cava, tana tra gli scogli sul fondo. Ricordo quando mi vidi murena, riflessa negli occhi di uno squalo. Riuscii a fronteggiarlo. Casto sposo. Mi cacciò quel prete. Uscito come un bruco dalla canonica, gesticolando contro il diavolo che gli rappresentavo. Avevo le maniche corte, avevo 8 anni. Col suo sproloquio interruppe il colloquio con te. Cencio d'uomo appeso in croce, mio futuro e casto sposo. Mi cacciò dalla chiesa. Il paradiso precipitò dalle sue altezze. Mi vedi? Sono di nuovo qui. Sono tornata. E tu rispondi, il mio è il cammino della madre. Da Londri se fui piula. La piula è in siciliano la civetta o lupupa. Se fui piula, o asina gravata dal carico, se fui libera, o se alla sbarra sognavo di galoppare tra il grano, non lo so dire, ma se fui asina, lei volava sopra di me, e se fui piula, mi posai sulla sua groppa. Insieme cavalcavamo per quelle terre, la notte ballando, nei recinti di pietre, sotto la luna. Dai chini. Son tutte a sonniferi le donne con famiglia. Qualcosa non le fa dormire, questa depressione di aria umida che scende sulle sere passate in casa. Tornano gli amori antichi, in sogno l'occasione perduta, un rimpianto, un vanto, lotte con oggetti sempre fuori posto, come i ricordi impossibili da rinchiudere in un cassetto colmo di roba. Dentro o fuori casa, figli, svezzati solo ieri, che hanno fame di quello che non c'è. Son tutte a sonniferi le donne che hanno fame di notte, di giorno, del tempo perduto, le altre già morte dentro. Ho una daichini che mi balla nel cuore, che danza furente con le orbite in fuori con 100 mani e con 1000 seni. Ho una daichini, per fortuna, nel cuore. L'addolorata. Guerriera, che sapevo il segreto di fermare il cuore affinché spada nemica non lo trapassi, apprendo con stupore il segreto di lasciarsi andare, lasciare che il dolore lo sconquassi. Da il chi nessuna fatica. Da oggi in avanti più nessuna fatica, più nessuna lotta, più nessun tormento. L'amore conquistato non è amore, l'incanto non si compra, viene va da solo. È tempo di spostare le pietre col pensiero, è tempo di gettare via i pesi dalle spalle. Quanto al vero, chissà chi lo ha inventato, lo inventerò ogni giorno come fonte di foresta. Porto in me le fiabe che sorreggono il mondo. Io non devo far nulla che non sia ascoltarle. È tempo di spostare le pietre col pensiero, è tempo di gettare via i pesi dalle spalle. Non forzerò i miei occhi cercando di vedere altri occhi all'anima che mi rendon lieta, fragranze nelle stanze, luce finestre aperte, entri il gelsomino e l'odore di neve. È tempo di spostare le pietre col pensiero, è tempo di gettare via i pesi dalle spalle. Risorga le papille, la vita inebriante di quello che vien colto, senza la sofferenza si allieve il contatto, soffice ogni incontro della vita invisibile, mi sfiori ad ogni istante l'amor che incede attendo senza fretta. D'amore l'aria è satura, non ho più alcun dubbio. Bello ogni pensiero colto nel silenzio. Ritorna in me la fede di essere amata. Da Canti per le Beate Genti, benedizione al Salvatico. Uomo salvatico di latte e miele, Tu non sei nato per essere crudele, uomo salvatico han bruciato le case, di fuoco e fiamme le hanno pervase, han sparso voci, voci di morte, han chiuso tutte, tutte le porte. Io ti lavo nell'acqua del fiume e mando via tutto il marciume. Uomo salvatico, colui che si salva, ti sto ungendo di erba e di malva. Uomo selvatico, creatura di ieri, del mondo nascosto, ricorda i misteri. Il canto del Salvan, il patto con la natura. Cogli solo quel che ti serve, ringrazia quando lo prendi. Cammina con passi leggeri, languana, così non offendi. Avverti quando ti avvicini, nessuno qui cerca la guerra. Rispetta i nidi e le tane, figli e figlie di questa terra. Con il sole o con la neve, salvatico è questo contratto. Sappi essere gentile e lieve e non rompere il sacro patto. Chi trotta e chi cammina, chi parte e chi poi torna, si nutre di fuoco sottile, sia lieve ogni tua orma. Come tutti sei parte anche tu di un ordine che è naturale. Non crederti più importante del più piccolo animale. Con il sole o con la neve, salvatico è questo contratto. Sappi essere gentile e lieve e non rompere il sacro patto. Chi nuota, chi vola, chi migra, andando per mari e per monti, ti prenderà su di sé e volerai in sogni e racconti. Nel bosco, come in città, ognuno risponde di sé. Languana anche te salverà, se non penserai solo a te. Con il sole o con la neve, salvatico è questo contratto. Sappi essere gentile e lieve, non rompere il sacro patto. Con il sole o con la neve, salvatico è questo contratto. Sappi essere gentile e lieve e non rompere il sacro patto, sappi essere gentile e lieve, e non rompere il sacro patto, e non rompere il sacro patto. Da Canzoni in licenza d'amore, donna son di carrozza, madrigale. Donna son di carrozza che non concede tempo. Tu miri alla mia alcova, io sto nel firmamento. Mi chiedi a che mi giova vivere senza amore. Meglio da sola e libera che in coppia con rancore. D'acide prestazioni non sento la mancanza, rifuggo e non sopporto sociale sudditanza. Fu dell'età più lieta l'amore quotidiano, per questo non do spazio ad alcun ciarlatano. Ebbi ciò che volevo, memoria ho conservato del tempo, dell'amore vivo e desiderato. Età avanzata in donna, spregiano i falsi uomini, pronti sono ad offendere, a men che non li domini. L'un si propone a soldi, l'altro ti vuol badante, per questo, cari amici, davver mi son bastante. Fu dell'età più lieta l'amore quotidiano, per questo non do spazio ad alcun ciarlatano. Pertanto, meglio sola a trastullarmi un po' che con un supponente a far da gigolò. D'amore non carnale, amanti ne ho più d'uno, ma tempo non ho più da dedicare a ognuno. E poi, chi amo, mamma, d'amore sopraffino, di me ricorda il tempo di fare l'occhiolino. Fu dell'età più liete, l'amore quotidiano. Per questo non do spazio ad alcun ciarlatano.